grigiastri, ghigni, ammascelle, cartilagine, folti furetti, fonde fiate, nivei grevi, ermellini di potere, cumuli astrati e stratocumuli, seguaci dell'avere. Avete freddo, avete notte, avete avvilizione. Non rispondete, e il negro nodo voi compone nella postura della giacenza, nella grigia latenza della luce, nella bassa emergenza che voi sin qua conduce. Che fuori di me, che fuori di voi, che fuori di sé e di loro, accumulati i nembi, che fuori del ghiaccio, fuori più fuori della pioggia, chi fuori del più loro fuori, temporalesche, di voi, di sé, di me, temporeggianti, gigantesche, tonanti, elefanti, giganti, fantasmessa, che linse, col lutto e con la pioggia, col topo e il caucciù, ad mestizian forgiate, raramente nequizia, spaventosa ruggente liquirizia, che titanica pizia, chi bevete e mangiate?